Proseguiamo quindi nel Hilchot di Tefilà, le leggi di Tefilà. Ok, non riesco a leggere. dove abbiamo visto varie condizioni di Tefilà, ora vediamo anche le condizioni di Tefilà ideale. Vuol dire non sempre si riesce ad entrare nelle condizioni ideali, ma per esempio l'importanza e la rilevanza di pregare in un Beta Knesset. Vediamo cosa dice il testo. Mitzvah Gedolah, qui tradotto con un dovere rilevante, cioè una cosa importante, Leitpallel bevet haKnesset o bevet haMidrash, di pregare in una sinagoga, un Beta Knesset, o un Beta Midrash, una casa di studio, che sono due cose in realtà diverse. Adesso vedremo anche un'altra distinzione tra qualche riga. Shehem Mekomot Mekudashim, perché sono considerati luoghi consacrati. Cioè il luogo stesso è un luogo importante, un luogo di Kedusha, un luogo di santità. E quindi è importante già pregare lì. Vafilu im lefa'amim mitbatel she'en sham minyan. Anche se potesse accadere che in questi luoghi qualche volta succeda di non riuscire a fare minyan, è comunque più importante pregare lì senza minyan che pregare da solo in un altro posto. Mikol makom, tuttavia, mitzvah leitpalel sham gam bichidut. È mitzvah pregare dentro questi ambienti anche da soli. Kevan shehem mekomot mekudashim, perché sono luoghi destinati al culto, luoghi consacrati. Ora vediamo la distinzione tra Beta Midrash e Beta Knesset. Vediamo. Sì, prego. Il Chet non l'abbiamo studiato? Ah. Ah, pensavo abbiamo fatto Chet. Oh, allora facciamo Chet, torniamo un attimo indietro. Scusate. Torniamo un attimino indietro al comma precedente, numero 8. Non l'abbiamo fatto? Ok. Grazie, Davide. Allora, Haholech baderech. Se qualcuno è in viaggio, vehigia la makom sheurotze lalun sham, ed è giunto al luogo in cui vorrebbe passare la notte, lalun, passare la notte, im yesh lefanav, se proseguendo in una distanza entro ad arba'a milin, se lui dovesse proseguire altri 4 miglia, ma com she mitpallelim betzibur, e entro 4 miglia trova un luogo in cui si prega con un pubblico, con un minyan, allora im yuchal lavo shama, se avesse la possibilità ancora di arrivarci, beod yom, mentre è ancora giorno, cioè prima che cala la notte, se lo yitzarech lalechet yechidi balaila, perché deve essere ancora giorno? Perché non è così, diciamo, rilevante oggi che ci spostiamo in altre maniere, ma specialmente chi camminava da solo, c'è un divieto che invita a non camminare da soli di notte, ok? Anche legato al pericolo. Allora, se riesce ad arrivare prima di notte, dice l'alakha, è bene che vada, che faccia questo proseguimento del percorso per arrivare nel luogo in cui ci potrà poi pregare con un minyan. Sarich lelech arba'a milin, lefanav, è tenuto a proseguire fino a 4 miglia, kedei sheyitpalel betzibur, per poter avere la possibilità di pregare con il pubblico. Ule'acharav, e se arriva in un luogo dal quale, tornando indietro, invece non proseguendo per la strada, ma tornando indietro sulle proprie tracce, si trova un luogo in cui si prega con Minyan, ma non si richiede così tanto di tornare indietro 4 miglia, solo un miglio. La Chazor mil, un miglio, che delit palel betzibur, allora lo deve fare. Un mikol sheken, e se questa è la regola per chi arriva in un luogo in cui non c'è Minyan, ma entro queste distanze e questi tempi deve cercare di arrivarci, a maggior ragione se uno si trova in un luogo in cui c'è un minyan, di non andare via da quel luogo, se ha la possibilità sia di pregare con i midiani in quel luogo e poi arrivare a destinazione partendo dopo, entro giorno, allora è tenuto a farlo. Se invece dovrà arrivare a destinazione quando è già notte, allora non è più tenuto a aspettare il minyan del suo luogo e poi andare. Prega prima da solo e poi va. Se uno è arrivato, abbiamo detto dove stiamo dicendo, e indietro non a un miglio, diciamo, ma lo avrebbe veramente entro 4 miglia, Allora, non vale. no, no, non è che non vale, non è Se che non vuole può vale. tornare indietro le 4 Certo, se miglia, ah, vuole l'hai può tornare detto. 100 miglia. La domanda è quanto è Minimo, tenuto. esatto. Quanto è tenuto? Se è indietro, entro un miglio. Se è più 4. lontano, se è più distante da un miglio Ah, ok. indietro, allora non Meglio è per più sì. tenuto, non è più obbligato, Non è più. diciamo, a tornare indietro. Se è invece sulla strada che Se è deve ancora nel percorrere, proseguimento, è massimo 4 2 allora miglia. entro 4 miglia è tenuto. Più di 4 miglia Quindi non se è non c'è tenuto. oltre 4, non c'è dietro 1, come obbligo potrebbe stare dove sta. Non è tenuto a andare a Se cercare. c'è miglia. Se No, è un se posto non dove c'è c'è miglia. né oltre 4 né oltre l'1 indietro, Prega da dove solo. sta e prega da solo. Embrera. A posto, sta dove sta. Esatto, prega da solo. Quindi concludiamo questa frase. Un mikol sheken è a maggior ragione. Shelo yelech mimakom shem mitpalelin sham bitzibur. Di non partire via da un luogo in cui si prega con il tzibur, con il pubblico, con il minyan. Im yachol lavo, se ha la possibilità di arrivare l'immechos hefzo, cioè alla località desiderata, quindi a destinazione, beh, odiom, mentre ancora è giorno. Ok? Quindi questo ci insegna l'importanza anche di quello che in realtà dicevamo già prima nel comma 7, dell'importanza della preghiera con il minyan. Qui ora nel comma 9, che abbiamo già iniziato prima, parlavamo del luogo. Quindi che anche pregando con Minyan, e addirittura anche se non ci fosse Minyan talvolta, c'è scritto l'Ifeamim, è importante pregare nel luogo consacrato, cioè nel Beta Knesset o nel Beta Midrash. Ora, il Beta Knesset è il luogo che è predisposto per Tefilah. Il Beta Midrash è il luogo che è predisposto per lo studio della Torah, la casa di studio. Ovviamente chi si trova nella casa di studio non deve scappare per andare a fare tefillah nel Beta Knesset, fanno il minyan nella casa di studio, se stanno già lì, Shachrit, Mincha, quello che è, lo fanno. Però a livello di Kedushah, com'è? C'è il sefer se Ci potrebbe anche serve. essere. Ah, potrebbe Ci sono case di studio dove c'è il Sefer per questa evenienza. Ma, tuttavia, a livello di Kedushah è più importante il Beta Knesset che il Beta Midrash. Ora non entro nei motivi, ci sono anche dei motivi tecnici, però è considerato più consacrato il luogo dedicato alla Tefilah che il luogo dedicato solo allo studio, diciamo soprattutto allo studio. Tuttavia, quello che adesso diremo è che dovrebbe essere la terza riga del 9, un mish edarko, non so se avete un mish edarko l'ilmod bevet ha-midrash. Chi è solito studiare nel Beta Midrash, Yitpalel gam ken shamma basara. Rimanga a pregare lì con Minyan, anche se esiste un Beta Knesset nella città. Afalpi sheyesh beiro gam Beta Knesset, che sarebbe in realtà una kedusha più importante ancora, però non è tenuto a lasciare il Beta Midrash per andare a pregare nel Beta Knesset, possono tranquillamente pregare con il Minyan nel Beta Midrash. Questo per chi è solito studiare nel Beta Midrash. Chi invece avalmi she endar kol ilmod be Beta Midrash, chi non è solito studiare nel Beta Midrash tutto il giorno, allora yitpaler be Beta Knesset sheyesh bo rov am. Ebbene che prega nel Beta Knesset, che contiene un pubblico numeroso, cioè il fatto che ci sia più pubblico è più kavod per la tefilah e per Hakadosh Baruch Hu, come detto, Uberov am hadrat melech, detto nel Mishlei, nei proverbi, che con la presenza di un grande pubblico, che si è con la presenza di un grande pubblico che si attribuisce onore al re. Più persone ci sono, e più onore è per, diciamo, per colui a cui si fa la tefilà. Ora c'è una halakha interessante che vi invito a dimenticare, è scritto così. Veim yesh beiro shtei batei knesiot, se ci sono nella città più di un bet knesset. Qui dall'esempio di due, se ci sono due bet knesset. Allora a quale devi andare? No, no, ascolta. Vedi, sentiamo. Yelech larachok, è meglio andare a quello più distante. Più distante da dove ci si trova, perché? Sheye lo schar pesiot. Perché ogni passo che uno fa per andare al Beit HaKnesset o al Beit HaMidrash è una ricompensa per ogni passo. Allora più passi fai e più però siccome voi venite in motorino, allora non vale. Allora venite a quello vicino. Shabbat. Hai detto questo pasuk, non lo dovevi dire. Non si può fare la censura. Non vale fare il giro lungo, però. Si può fare pure il giro lungo, perché no? Per andare a quello vicino. Ah, sì, buona idea. Vai lì e torni. Così fai tutto, fai passi, fai. Bravissimo. Interessante, eh? Mm. Questo non è un obbligo assoluto. No, no. È un sì. Se più lontano vai, indipendentemente da. Allora, faccio una però qua. Faccio una chiamiamola mezzanine. One moment, faccio una premessa. Uno dei grandissimi maestri poskim di Halakha della nostra generazione, diciamo, è mancato, non vorrei sbagliare, ma credo una quindicina di anni fa, Rav Shlomo Zalman Auerbach, grandissimo maestro, e forse di tutti questi maestri forse uno dei più umili, anche una persona semplicissima di Jerusalem, è un grande talmid, grande posè, grande genio. E allora lui studiava Halakha una volta con, non so se era in yeshiva o nel suo tempio, lui era il capo di una grande yeshiva, e si studiava l'alakha che noi studieremo anche, che prima della tefilà non si mangia e non si beve finché non si fa tefilà. Allora studiavano questa alakha, e allora uno dei ragazzi ha ripreso un altro dei ragazzi, ha detto: ah, tu hai preso il caffè prima del tefilà, vedi, c'è scritto nello Shulchan Aruch, non si può fare, è un divieto assoluto. E allora Rav Auerbach, che era, a parte il genio di Torah, che era anche un genio di praticità, ha detto a questo ragazzo: dimmi una cosa, prima che hai studiato questa halakha prendevi il caffè prima della tefilà? Sì, prendevo. E tuo papà, che è un ebreo osservante, fai prendere il caffè prima della tefilà? Sì, prende il caffè. E tuo nonno, che tutti conosciamo, un grande chacham, prende il caffè prima della tefilà? Sì, prende il caffè. Allora come lo spieghi? Allora ha detto: noi studiamo la halakha, e però studiamo anche il comportamento di ebrei di tradizione, osservanti, come trasmettono. E a volte vediamo una divergenza tra quello che leggiamo sul libro e quello che è il comportamento. Perché se si approfondisce quella stessa halakha, che non sempre nella fonte che studi, specialmente che è un kitzur, no? Un kitzur è una versione abbreviata, ci sono tutte le prospettive, tutte le fonti, tutte le motivazioni. Quando si approfondisce, per esempio, quella halakha, c'è scritto chiaramente che oggigiorno, che siamo più deboli, siamo più abituati a mangiare, a bere più spesso, eccetera, chi fa tefilà senza prendere qualcosa se ha bisogno, forse quello sarebbe vietato, perché rientra, non dico vietato, ma ha una, alachicamente si chiama cholè, malato, tra virgolette, cioè ha un'esigenza del corpo di dover prendere un bicchiere d'acqua, un caffè o chi, secondo quello che gli serve, e Gli è permesso assolutamente farlo prima della tefilà? Allora non vuol dire che dobbiamo andare a cancellare i libri di Halakha. Vuol dire che dobbiamo prendere tutto in considerazione. Noi quando studiamo l'Halakha dobbiamo anche farci istruire come applicarla. E non sempre è alla lettera. Può sembrare strano. Però questo esempio è un esempio calzante che diceva Rav Shlomo Zalman Auerbach, uno dei più grandi poskim, come ripeto, di vedere l'Halakha, studiarla, capirla, approfondirla e vedere anche il comportamento ufficiale. C'è nel Talmud è scritto Ma'ase Rav. Ma'ase Rav cosa vuol dire? L'atto è grande, che si intende. Ma'ase l'azione, Rav è importante. Rav come Arbe, grande, importante. Il Talmud dice se impari una cosa e ti viene detto questa è l'Halakha, ancora non la devi mettere in atto. Finché non ti viene detto Halakha le masse. Halakha che si mette in atto. Cioè ci può essere l'Halakha che è Halakha, ma non è messa in atto. È un principio che è in pratica. E poi il Talmud dice se tu vedi masse, non ti viene detto solamente, ma lo vedi messo in atto da un maestro, masse, Rav. Quella è la cosa che prevale anche sull'Halakha che hai studiato sul libro. Il Maase è ancora più grande. Perché l'Halakha che hai studiato sul libro dipende da tante cose. Ci sono tante condizioni che forse non conosci, motivazioni che se cambia una virgola può essere che cambia l'Halakha, eccetera. Per questo motivo anche nell'Halakha, in generale nelle cose, ma in particolare nell'Halakha, è molto pericoloso fare paragoni tra un paragrafo e un altro, o tra una situazione e un'altra, o tra una cosa e un'altra, perché moltissime cose possono sembrare che può sembrare che si basino su principi simili, oppure sono cose che sembrano simili, ma in realtà ci può essere due comportamenti simili che in realtà hanno dei principi base completamente diversi. L'analogia. E quindi l'analogia non si può fare. Il pericolo più grande nell'Halakha è quello dell'analogia. Per questo motivo, quando un posek, un maestro che emette delle sentenze halachiche, dà appunto una decisione di Halakha, spesso nel responsum ci sono un'infinità di fonti, un'infinità di approfondimenti, e soprattutto sulla questione delle analogie, dove si cerca di chiarire bene, nonostante le similitudini con altre situazioni eventuali, che c'è comunque una distinzione di definizione di quella halakha di cui si parla in quel contesto che sia. Questo è una infinità di libri di responsa che dedicati proprio a queste questioni qui, molto molto molto specifiche. Proprio ieri vedevo una cosa sulle leggi di Hanukkah, che si chiama Hanukkah, riguardava una domanda di chi all'uscita di Shabbat, quando è Hanukkah, allora si fa l'Avdalah, al Tempio si accende prima la Hanukkiah e prima l'Avdalah. La maggior parte usano fare a casa il contrario, ma alcuni fanno anche a casa così, come scritto nel Ramman, nel Shulchan Aruch, che si fa prima le candele di Hanukkah e poi l'Avdalah, perché comunque si appoggia all'Avdalah che si è fatta nell'Arvit, perché quando esce Shabbat si aggiunge un brano nell'Amidah, che è un brano di Avdalah in realtà. E l'Avdalah che si fa sul bicchiere è una seconda Avdalah. Allora, visto che già abbiamo fatto in realtà l'Avdalah nella Tefilah, si chiama, allora possiamo già, diciamo, Shabbat è concluso completamente, anche segnato da un Avdalah all'interno della Tefilah, e possiamo accendere le candele di Hanukkah. Poi faremo l'Avdalah sul bicchiere. Cosa succede se uno ha fatto così? Lui usa fare prima la candela di Hanukkah e poi l'Avdalah sulla coppa di vino, sul calice di vino. Se uno prende in mano la candela di Hanukkah, dice la Berakha, Shem Kideshano, Ben Mitzvotah, Vetzivano, Ladlik, Ner Hanukkah. E già ha in mano lo Shamash ed è pronto ad accendere. Non so se, diciamo che qualcuno gli ha acceso lo Shamash o che lui non ha ancora acceso lo Shamash, quello che sia. Prima di accendere la Hanukkiah, ti ricorda che nella tefilà si è dimenticato di fare l'avdalà. Domanda. La berachà l'ha già fatta. Deve interrompere tra la berachà e l'accensione per fare l'avdalà prima che accende la Hanukkah? Oppure prevale l'idea della non interruzione tra la berachà e la mitzvah e l'azione? Ed è meglio che accende. Meglio che accende. Comunque non è Shabbat. No, no, no. Le tre stelle sono uscite. Però non ha fatto ancora l'avdalà. Allora, cinque pagine. Cinque pagine di approfondimento su questa domanda. Affascinante. Però la maggior parte di queste cinque pagine sono analogie con altre situazioni e cercare di capire se si può appoggiare, paragonare a quel, perché l'alaka scritta così non è scritto solo a Shulchan Aruch. Allora il Posek deve vedere di trovare le analogie, i precedenti, le fonti e capire quali si possono applicare, quali non si possono applicare. Per questo l'alaka è pericolosissimo, arrivare a conclusioni da soli senza tutto questo che c'è dietro. Magari si appoggia proprio su una cosa che non c'entra niente con quello che... Esattamente, parla. Esattamente. Dice, no, vabbè, in quel caso si fa così, allora è uguale anche qui. Per esempio, una delle analogie è... Ecco, questo volevo dire. Sì. Una delle analogie è così. C'è scritto sullo Shema. Venatati esse besadhali ventecha veachaltà vesavata. Questo versetto cosa dice? Una berachà, che quando voi seguite le mitzvot di HaKadosh Baruch Hu in Eretz Israel, allora io darò a voi esev, l'erba, besadecha, nel campo per chi? Liventecha, per la behemah, per la bestia, che possa pascolare, mangiare. Veachaltà, e tu mangerai, vesavata, e sarai sazio. Chachamim dicono, da questo versetto noi capiamo chi deve mangiare prima e chi deve mangiare dopo. Sì, è vero. Prima di metterti a tavola devi assicurarti che le tue bestie hanno mangiato. È un'alaka. Se uno ha degli animali, non solo uno al pascolo, ma anche dentro casa, quello che è un'alaka abbastanza nota, che ognuno deve prima farsi assicurarsi che quegli esseri viventi che dipendono da lui per il nutrimento siano stati nutriti e poi si mangia. Cosa succede? Valevole per gli schiavi. Beh, certo, però possono mangiare da soli. Allora, no, ma è vero, è vero. Cosa succede? La domanda è nella Gemara di Berachot: se uno ha preparato il suo pasto, si è messo a tavola, ha già detto la Berachà, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, ha mozi lechem min haaretz. Poi si ricorda che non ha dato a mangiare al suo toro. Allora l'Alchà dice, lui può dare indicazione, anche interrompendo con la parola, lì c'è scritto in aramaico, Gevil Torì, dai il fieno al toro, lo dice al servo o a qualcuno che se ne occupa, e non è considerata un'interruzione, perché? Perché c'è questa mitzvah. Fa parte, in altre parole, perché non è considerata un'interruzione? Perché visto che fa parte del suo cibarsi, cioè lui non può mangiare finché non mangia l'animale, allora è come se lui interrompesse dicendo portatemi il sale, perché visto quando si mangia il pane bisogna metterlo nel sale, se non c'è il sale non è considerata un'interruzione se lui dice portatemi il sale, perché fa parte di quello e nello stesso contesto, non è come se lui dicesse che tempo fa. Non parla d'altro. Non è un'interruzione, non parla d'altro. Allora anche dare la Gemara dice anche l'indicazione di far mangiare l'animale rientra nello stesso contesto, perché è sempre legato alla sua seudà che dipende in qualche maniera dal dar da mangiare alla bestia. Allora si faceva l'analogia, si può dire anche qui riguardo Hanukkah, e tutto un approfondimento se si può dire o meno, perché non è così necessariamente uguale, perché lì sono due contesti diversi. E qui è un contesto solo, allora c'era chi proponeva che si poteva e lui invece cercava di dire che no, non si rifiutava questa tesi perché sono contesti diversi e faceva altre analogie, così andava avanti. La pagina 6 come chiude? Dopo le 5 pagine di approfondimento? Devo ancora concludere. Sì. Ma avanti di questo passo non finiva mai. Ma infatti come dissi una volta, adesso capisco perché tutto è un volume, volume. Ecco, adesso si capisce un po' meglio perché sono tanti volumi. Certe cose abbiamo passato. Allora, torniamo un attimino alla nostra halakha. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Qui si cita un maestro del Talmud, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dice, e qui indichiamo un comportamento, come dicevo prima, che può essere considerato ideale. Comportamento ideale qual è? Leolam yashkim adam le beta knesset. Fate attenzione. Ebbene, arrivare presto al beta knesset, kedesh imane imasara rishonim, per essere contati tra i primi dieci. Shafilu mea baim acharav, anche se dopo di lui, dopo di questi dieci, dovessero arrivare altri cento, o mille, o quello che è, notel sachar che neget kulam, chi arriva tra i primi dieci è come se prendesse una ricompensa valida quanto tutti quei cento che arrivano dopo, perché il minyan dipende da quei primi dieci che arrivano, chiaramente. Devo dire che qui quasi tutti rientrano in questa cosa, perché spesso siamo dieci. Od amru raboteinu zichronam livracha. No, non deve essere il decimo, uno dei primi dieci. C'è scritto anche qualcosa del decimo, questo è vero. Però qui, con il terzo, con il decimo arriva la Shekhinah. È lì che si posa la Shekhinah. Inoltre dissero i nostri maestri, od amru raboteinu zichronam livracha, kol mi sheolech shacharit varvit lebet haknesset, o lebet hamidrash, bazman haraui, ognuno, chiunque va in tempo, sottolineato, al mattino e alla sera, al beta knesset o al beta midrash, e umitacher sham karaui, e rimane il tempo necessario, cioè non arriva tardi e non scappa via presto, umitnaheg sham bikdusha karaui, e si comporta con santità come conviene al luogo, zochel arichut yamim, merita una vita lunga, è scritto nella Gemara, nel trattato di Berachot, dichtiv, e si cita il versetto che è scritto appunto nel Mishlei, nei proverbi, Ashre Adam Shomea Li, beato chi mi ascolta, e cosa vuol dire mi ascolta? Lishkod al daltotai, presentandosi assiduamente yom yom, ogni giorno alle mie porte, al daltotai, le mie porte, cioè il porto del Beit Knesset, Beit Midrash, Lishmor Mezuzot Petachai, vigilando gli stipiti della mia entrata. Oktiv Batre, dopodiché è scritto, sempre lì, nel versetto successivo, Kimotzei Matza Chaim, poiché colui che viene a trovarmi trae la vita. Hai visto? Ora, nella prossima halakha è scritto, nel Beta Knesset stesso, o il Beta Midrash, è bene avere un luogo specifico in cui si fa tefilà, all'interno del Beta Knesset. Cioè non girare, vediamo l'halakha. Yesh lo l'adam likboa lo beta knesset o beta midrash it palel sham bikviut. La prima cosa che dice è bene avere un beta knesset in cui si va in maniera fissa, è bene pregare in un, uno decide io prego in questo beta knesset. Ci sono molte città dove ci sono molti beta knesset, uno qui, uno lì, uno attraverso la strada ce n'è un altro. Non è considerato un comportamento serio andare una volta qua, una volta là, una volta lì. Ovviamente se uno si trova in posti diversi è chiaro che cambia, anzi, come dicevamo prima, anche quando viaggia è bene, se è possibile, cercare il posto dove c'è Minyan. Però parliamo di uno in maniera fissa, come si comporta. Se sempre... come riferimento. Riferimento, quello è il Beit Knesset dove io prego. Invece quello che dicevo prima, all'interno del Beit Knesset stesso, Vegam, inoltre... Yikba lo sham makom miyuchad leitfilato, e all'interno del Beta Knesset è bene stabilire un luogo più o meno fisso, diciamo un posto in cui la persona prega sempre. Cioè, ognuno per il proprio spazio. Ognuno con il, sì. Scegliersi un posto. Scegliersi un posto. Oltre al Beta Knesset il famoso posto. Che il famoso posto, bravissimo. Sì, sì. Ce l'avevo detto. L'avevo già detto? Sì, sì. Ah. Quando si parlava una volta, quello è il posto mio, dice, non esiste il posto mio, però in realtà è vero, è bene avere un posto. Un posto di riferimento. Bravissimo. Ora, quando adesso lui fa una specificazione, quando si dice un posto specifico, non è necessariamente quella sedia, Kol toch arba amot che chad makom chashuvu. Quattro amot, cioè quelle più o meno 2 metri quadri. Un'area circoscritta, bravissimo. Ora, e qui però non bisogna litigare. Vetov, ebbene, im yachol, se può, likboa lo makom etzlakir. Se riesce ad avere questo tipo di posto fisso, area circoscritta, vicino a un muro, è ancora meglio. Perché? Kidmiatzinu v'chizkia melech. Visto che troviamo un'allusione a questa cosa, perché è scritto riguardo il re Chizkia o Ezechia, che Ezechia si dice Ezechia, che quando lui fece una preghiera una volta, in una circostanza particolare, c'è scritto Vayasev Chizkiyahu Panav El Hakir. E Chizkiyahu si volse, Ezechia si volse verso il muro e pregò. Cosa è questa cosa verso il muro? Non stiamo parlando soprattutto durante l'Amidah. Se uno riesce a farla, ovviamente non è possibile per tutti, se siamo in un Beta Knesset non tutti hanno un muro davanti. Però, esatto, senza avere distrazioni davanti è la cosa ideale. Se uno non ha un'altra persona o altri oggetti davanti che possono distrarlo, muoversi, eccetera. Però, di nuovo, non è un obbligo assoluto, anche perché non è possibile che tutti lo potessero fare. Infatti c'è scritto, Tov im yachol, ebbene se può. Ma è vero, Rav, perché mi hanno detto che anche il fatto di, proprio nel momento dell'amidà, di non avere persone davanti, è per non interrompere anche una certa... E anche per non disturbare... Ah, spiritualmente? Certo, spiritualmente. Ah, vabbè, questo... Certo, non so se... Cioè, perché poi... il famoso... Che poi è riportato, Ok, ok. Quindi... No, questo non è così... Non ho letto... Sì, ho capito. Una fonte, ecco. Ho capito. No, in realtà non è così. Perché non è così? Perché... Non è che la tefilà di un altro ebreo disturba la tefilà di un altro... A livello spirituale, dico... Non è che a livello spirituale c'è qualche inceppo se la mia tefilà incontra la tua. C'è un'unione, anzi. Anzi, bravo, anzi c'è un'unione. Sei apposta qui per essere. Oh, bravo. Quello invece sì, è un altro discorso che non so se lo vedremo qui esplicito, però c'è la halakha che dice che mentre si fa la amidà, e uno magari ancora non ha iniziato o già ha finito la amidà, non deve girare tra le persone che già stanno facendo la amidà. Perché? Perché semplicemente crea una distrazione. Questo. Allora se qui la maggior parte delle persone stanno facendo la amidà, e tu hai già fatto, o ancora rimani, aspetta, se devi magari uscire, ebbene, se non è per causa di forza maggiore, che ne so, non girare tra le persone che stanno facendo tefilà. Questo sì, perché è semplicemente un discorso, stesso discorso che dicevamo del muro, diciamo, di distrazione, di rispetto di chi sta facendo, di concentrazione per il rispetto della concentrazione degli altri. Poi c'è scritto, poi conclude questo paragrafo dicendo velo yamod velo yeshev bitfila etzel rasha. No, non bisogna stare vicino a una persona pubblicamente nota come rasha. Grazie a Dio io non conosco nessuno così, allora Baruch Hashem non abbiamo questo problema. Una persona pubblicamente nota come malvagio, che è diciamo quasi una designazione alachica come malvagio. Poi aggiunge un'altra cosa importante, che non riguarda il Beta Knesset, ma riguarda sempre questa alachà del posto fisso, l'ultima riga, e dice Ukshe mitpallel beveto, quando la persona prega da solo a casa, per qualsiasi motivo che sia che non è andato al Beta Knesset, allora yikbalo gamken makom. Ebbene, tenersi un posto fisso anche a casa, sheloye balbelu benevetò, cioè un posto in cui può pregare senza essere disturbato e distratto dalle altre persone che sono a casa. Quindi anche quando uno deve pregare a casa, non dove si predispone un luogo, esatto, dove sarà meno possibile disturbato o distratto durante la sua tefilà. Ok, concludiamo qui. Posso fare una domanda? Anche due.